Fisso, io che ancora resisto, porto croci sulle spalle, la passione di Cristo. Guarisco, ma tengo denti serrati, visto che attorno a me vivono contaminati, trafitti, deviati, relitti, perché la mia realtà è una società che vuole solo sconfitti. Vago nell'orbita, ricerco dei pari, ma segnali nella nebbia sono viaggi mentali. Sono preliminari, magari mi sciupo, io ultimo baluardo faccia a faccia col cupo. Non so se tenere testa sia astuto, continua resistenza e non mi è ancora piaciuto. Mi danno amaro schifo in velluto, che forse è quasi meglio leccare. Ammalarsi, addormentarsi, invece prendo lo sputo. E resto vero, mai stand by fuori uso, perché ci si sta meglio col veleno trasfuso. E non capisco come mai soltanto io resto chiuso, gioco forza finché non sarò fuso. Dammi un infuso, ammazza, sto recluso deluso. Cerco di essere il mio meglio, da risveglio vesto occhi di cristallo, rivestiti di metallo, per tenere gocce nere in piombo in fase di stallo. E non parlarmi di sballo, non mi drogo per quello. Dilaniato, mascherato da soldato, sono un santo mutilato. Cerco il buono in questo mondo malato, con un grido strozzato, stremato, paralizzato. Perché cazzo non mi è ancora cambiato? Fammi male. Forza, fammi gridare, fammi sentire normale. Dammi il colpo che può farmi piegare. Piega uno sprang e punta, fammi un buco nel cuore. Guardami il petto, fammi cedere.